Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Sono le 8 e 18 minuti, lunedì 21 settembre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo qua con la terza parte di 24 mattino. A partire dalle 8.35, come vi dicevo, parleremo di smart working, ossia di lavoro agile. Di quello che ci ha imposto, che ci è stato imposto dal lockdown, che è stato prevalentemente in realtà un lavoro da casa e non il cosiddetto lavoro agile, dell'impatto che questo ha sulle nostre vite, quanto può essere esteso, che cosa cambia effettivamente, cosa cambia anche per le città, anche per le città. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, raccontare la vostra esperienza, dire come la pensate, se la vedete come una vera rivoluzione, cosa cambia all'interno delle vostre aziende, cosa cambia in assoluto, anche nella società, e come avete vissuto anche il periodo di lockdown. Ci siamo. È il momento dell'appuntamento quotidiano col nostro Paolo Mieli. Buongiorno Paolo, eccoci. Buongiorno. Eccoci qua. È un giorno nel quale di politica non possiamo parlare, perché è un giorno di silenzio elettorale. A proposito Paolo, tu la trovi anacronistica la legge sul silenzio elettorale? Ormai che ci sono i social, ormai che tutti scrivono dappertutto quando gli pare, o secondo te deve esserci, regge ancora, una limitazione di questo tipo serve? Guarda, detto con grande sincerità, è una legge assolutamente anacronistica, però fa comodo a noi due, perché per un giorno possiamo saltare a più appari la politica, diremmo delle cose generiche, quelle che si dicono il lunedì mattina quando si valuta l'affluenza, ma tutti vogliono sapere come sono andati i voti. In realtà l'affluenza è stata buona, oggi c'è un solo giornale, il giornale di Sallusti, che dice che era bassa, ma gli altri constatano che il 40% in un giorno estivo, perché ieri è stato per tutta Italia un giorno quasi estivo, e con tutti i timori da lockdown, 40% non è poco, significa che oggi molto molto probabilmente supereremo il 50%, e quando mai, per un referendum. E tra l'altro un altro dato che mi ha colpito è che il dato che i risultati si discostano di poco nelle regioni dove si vota per i consigli regionali e nel resto d'Italia dove si vota solo per il referendum, quindi c'è una certa voglia di voto, l'ho notata anch'io, sì, nonostante le paure. Tu sei andato a votare? Io sono andato a votare naturalmente. Dice Maria, anch'io. Ci scrive a Maria, ci vorrebbero 2 giorni a settimana di silenzio elettorale. Non è male questa. Vedi, io lo so che Qualcuno lo vuole, serve fare un giorno di pausa. Magari potremmo anche istituirla. Ci penseremo, cara Maria, ci penseremo. Caro Paolo, io inizierei dalla scomparsa di Rossana Rossanda. Non ne ho parlato in rassegna stampa, aspettando proprio di parlarne con te. Beh, è un grandissimo personaggio, aveva 96 anni, è stata una dirigente giovanissima del prima partigiana, poi giovanissima del Partito Comunista Italiano. Togliatti la volle, sempre giovane, capo della sezione culturale, apparteneva alla sinistra del partito, quella che si richiamava Pietrangelo, tant'è che fu espulsa insieme a quelli del Manifesto, poi diede vita al quotidiano del Manifesto, a un certo punto ruppe anche col quotidiano del Manifesto. Ma sai quale? Due cose mi hanno colpito più degli altri. Uno, che tutti nel ricordarlo hanno detto più o meno estesamente le cose che ho appena sunteggiato, ma hanno ricordato la storia dell'album di famiglia. L'album di famiglia fu che durante gli anni del terrorismo, del sequestro Moro, mentre tutta la sinistra diceva queste brigate rosse, sedicenti brigate rosse, secondo noi sono fascisti travestiti da comunisti, lei tirò fuori la teoria e dice: ma quando mai io vedo nelle loro parole, nei loro volti, nelle loro storie che fanno parte della nostra storia? Quindi è curioso che per la donna più a sinistra della vita politica italiana, poi quando è il momento del ricordo, tutti ricordano la cosa che ha provocato più imbarazzi nella sinistra. La seconda cosa che mi ha colpito è un articolo della Stampa, una testimonianza di Luciana Castellina, che è un'altra grande di questa esperienza, che dice che Rossana Rossan, la testimonianza della raccolta Maria Berlinguer, dice: cucinava da dea, noi facciamo le riunioni, lei cucinava da dea. Una sera, quando ci diceva: ma se va a finire tutto male, se fa, beh, dice, apriremo un ristorante. Questa cosa mi ha colpito per la sua simpatica leggerezza. Sì. Paolo, ti porterei, allora, abbiamoci, io so che non ami parlare degli articoli che scrivi tu, abbiamo citato in rassegna stampa il tuo pezzo dedicato sul Corriere della Sera, dedicato alla vicenda dell'ANM e di Palamara, prima il cui processo al CSM si è rallentato e poi ha subito un'accelerazione improvvisa e rapidissima, e a breve arriveremo a decisione, siamo arrivati a decisione e sentenza. C'è questo tema, resta un po' sotto traccia sui giornali, perché è una di quelle cose italiane che, no, delle quali non si preferisce parlare fino in fondo. Ho capito, la settimana scorsa ci siamo rovinati i rapporti con la Corte Costituzionale, credo in maniera definitiva. Adesso, come tocca avevamo CSM, quasi annunciato, ci roviniamo i rapporti col CSM. Che cos'è che colpisce non solo me, ma molti giornali? Oggi ho letto un articolo anche di Giacomo Amadori sulla Verità. Colpisce il fatto, appunto, che questa storia di Palamara, la ricordate tutti, l'hotel Champagne, la riunione fra magistrati e politici che trattavano per i vertici di importanti procure. La storia dura dal maggio 2019, è andata avanti lentamente, poi a poco si è centellinato. Palamara è stato espulso in due tappe dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e il CSM, che è l'organismo supremo di coordinamento, sorveglianza, fa tutto per la magistratura, se l'è presa comoda. Adesso all'improvviso hanno annunciato che faranno una seduta dietro l'altra, soprattutto hanno scartato tutti i testimoni proposti da Palamara, tutti i testimoni magistrati proposti da Palamara, e la cosa avviene, non dico che sia per questo, ma è una singolare coincidenza con il fatto che il 20 ottobre Pier Camillo Davigo, che è un po' un capo della magistratura, compie 70 anni e dovrebbe uscire dai ranghi della magistratura. Cosa che non vuole fare, cosa lui vuole rimanere al suo posto, perché dice: io sono stato eletto, ho diritto a rimanere al mio posto. Ma questa accelerazione, così, probabilmente per arrivare a una sentenza, una decisione su Palamara prima del 20 ottobre e scartando 130 testimoni, ne hanno tenuti solo alcuni che tra l'altro non sono magistrati, alcuni, due, tre, cinque, credo, cinque o sei, fa pensare che forse sarebbe stato meglio che avessero cominciato prima a dare attenzione a questa cosa, B, che avessero fatto un dibattito trasparente con gli altri magistrati, perché la domanda adesso: cacceranno Palamara, forse lo uccideranno, non so cosa faranno, insomma lo toglieranno di mezzo, ma la domanda che tutti ci facciamo è: ma davvero solo Palamara trattava con i politici? Per carità, però diciamo così che... Ma anche il CSM dovrebbe dare, perché una tra l'altro hanno scorporato il suo caso da quello degli altri magistrati coinvolti in quella famosa cena all'hotel Champagne. È strano, no? Quando uno che era un capo fino al giorno prima, per lui ho visto che nell'Associazione Nazionale Magistrati sabato si sono presentati in 100 su 7.000 quanti erano, e solo uno o due si sono pronunciati a favore non già di Palamara ma delle sue riserve. È una cosa tipicamente italiana, le cose che vanno prima troppo lentamente, poi troppo velocemente, poi tutti che si squagliano quando il capo cade in difficoltà. Se una volta la magistratura desse l'impressione di essere meno italiana, ma non sarebbe male. Non sarebbe male. Piacciono... Del resto, no, dicevo prima, del resto quelle chat le abbiamo lette tutti e in quelle chat non era coinvolto solamente Palamara, quindi forse, forse un allargamento, una discussione pensano, pubblica su questo ci potrebbe essere. Essendo molto astuti, furbi, pensano che se decapitano Palamara danno la sua testa in pasto all'opinione pubblica, tutti dimenticheranno queste trattative, questi commerci fatti da altri magistrati, suoi colleghi, un po' di tutte le correnti. Guardate, questo non accadrà. Adesso andiamo a litigare pure col CSM, ma insomma non accadrà. Il PM espiatorio. Allora, veniamo ad altri giudici, quelli della Corte Suprema, Paolo, della Corte Suprema americana. Visto che ci siamo inimicati la Corte Costituzionale, ci fosse mai all'ascolto qualche funzionario americano. Hai ragione. Diciamolo con cortesia che la Corte Suprema americana è morta una giudice importantissima, Ruth Ginsburg, che era una giudice progressista, e così, siccome è fatta di equilibri, i giudici nominati sono a vita, adesso sostengono che secondo le volontà lasciate nel testamento da Ruth Ginsburg, Trump non dovrebbe procedere come nei suoi diritti alla nomina di un nuovo giudice. Lui ne ha già pronta una che si chiama M. Coney Barrett, che lui ha già nominato come giudice della Corte d'Appello di Chicago, che era una collaboratrice di Anthony Scalia, insomma una giudice molto importante e che ha 48 anni, siccome restano a vita significa... Ma comunque ha come riserva l'ispanica la Goa, la conservatrice Rushing, insomma ce ne ha varie. Ma il dibattito è appunto, ha diritto o no Trump alla vigilia delle elezioni a nominarla? Gli osservatori democratici negli Stati Uniti sostengono no, non ha diritto, aspettiamo a gennaio, si vota a novembre, ma il nuovo presidente si insedia a gennaio e chiunque sarà lo nominerà lui. Però qualcuno anche in campo democratico ha fatto un rimprovero molto diretto alla Ginsburg, a quella che è morta, dicendo che noi le avevamo detto, era già in età avanzata, in difficili condizioni di salute, di dimettersi ai tempi di Obama, così tutto sarebbe stato più lineare. Lei ha voluto rimanere al suo posto e oggi ci troviamo in questo guaio. Situazione. È una considerazione su cui mi sono fermato a riflettere, nel senso che si può fare una scelta solo motivandolo quando è a chiaro vantaggio tuo. Bisognerebbe sulle cose della magistratura in America come in Italia cercare di conservare un modo di ragionare super partes che valga per sé ma valga anche per gli altri. Sì, e tra l'altro appunto l'ipotesi che Trump nomini una giudice conservatrice antiabortista, certo. e quindi la preoccupazione dal lato democratico è quella. Ultima cosa sulla quale ti voglio portare è: possono dei gatti mandare in crisi una coalizione di governo? Pare proprio di sì, perché è quello che sta per succedere in Polonia, no? Hai visto la vicenda di Kaczynski, ben raccontata a pagina 15 del Corriere della Sera da Paolo Valentino? È la cosiddetta guerra dei visoni. Hanno varato una legge ultra animalista nella quale la Polonia, che produce per così dire un terzo dei visoni che vanno nel pianeta per pelliccia, rischia invece di veder azzerato questo commercio. Perché? Perché il presidente è un gattaro. Un gattaro è un modo, a Roma lo si dice, per dire dei disperati che vanno a dare da mangiare ai gatti come unica occupazione. Sì. È un grandissimo amante dei gatti, che tratta come esseri umani, è forse la persona più animalista al potere, parlo, nel mondo, ed è curioso perché è un leader della destra, è odiatissimo, è odiatissimo dalle sinistre e dai democratici, però ha voluto questa legge animalista, ha provocato addirittura, come tu hai ricordato, un terremoto nel governo. Il ministro dell'agricoltura Krzysztof Ardanowski si è pronunciato contro, ma lui vuole un divieto di allevare animali da pelliccia. Nota che la Polonia è uno dei paesi che ne alleva di più, ma anche altro, in posizioni di severe restrizioni alle macellazioni rituali, sì. Kasher e halal, che sono le macellazioni rituali per gli ebrei e per gli islamici, e il provvedimento proibisce di usare le fiere nei circhi e anche di incatenare i cani. Il più grande combattente animalista della terra è, vedi, paradossi, è sì. un personaggio della destra polacca notissimo, odiatissimo, versatissimo, molto discusso. Queste sono le curiosità sì. della politica nel mondo. Allora, grazie anche per oggi Paolo Mieli, vedremo come finirà, se sui gatti e sui visoni cadrà la coalizione polacca oppure no. Ci sentiamo domani ad elezioni fatte e a risultati più o meno acquisiti. Paolo, buona giornata. Si torna a parlare di politica. Una pausa, ci troviamo tra un attimo per parlare di smart working. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Mattino. Le 8, 36 minuti e 20 secondi e veniamo a parlare, mentre vedo che vi siete scatenati sulla vicenda di Kaczynski e dei gatti del presidente polacco, a dire non è che se uno è di destra deve essere anti-animalista, no, per carità, lo stupore di Paolo Mieli è che perché un pezzo della destra sovranista molto importante in realtà su questi temi, sul tema della caccia, sul tema degli animali, del rapporto con la natura, ha una visione molto diversa da quella di Kaczynski, no? E quindi il ragionamento era semplicemente questo. Quanti di noi durante il lockdown si sono trovati a lavorare da casa? E quanti di noi si sono ritrovati con la fine del lockdown col fatto che le aziende continuavano a chiedere di rimanere a casa il più possibile? Covid-19 ha creato un cambiamento che forse è una cesura radicale nel mondo del lavoro, ed è in questo ricorso massiccio a quello che non è stato lo smart working ma l'home working, il lavoro da casa. Tutto questo porta a una serie di inevitabili conseguenze. Pensate solamente al rischio di svuotamento delle grandi città e delle zone di uffici, al cambiamento dei valori immobiliari, solo per parlare di un effetto indiretto. E poi ci sono gli effetti diretti, quello che cambia nella vita dei lavoratori, in quello che succede quotidianamente, la capacità di conciliare vita privata e lavoro, nella qualità del lavoro all'interno delle aziende. È un tema enorme, non ci basterà questa puntata per parlarne ovviamente, e non ci basterà questa puntata per raccogliere tutte le vostre testimonianze. 800 24 00 24, le aspetto. Prima dell'emergenza lavorava da remoto mezzo milione di persone, durante il lockdown si sono raggiunti gli 8 milioni. 8 milioni, pensate alla dimensione del cambiamento che poi tutti noi, o gran parte di noi, ha vissuto sulla propria pelle. Ne vogliamo parlare con due persone, nel Mariano Corso innanzitutto saluto, che è responsabile scientifico dell'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Tra le persone che firma, che mette la sua firma in questo libro edito dal Sole 24 Ore e uscito sabato e che trovate in edicola proprio sullo smart working, il domani è già arrivato, riflessioni sul futuro del lavoro nelle analisi appunto del Sole 24 Ore, tra le firme c'è quella di Mariano Corso, ce ne sono molte altre, ci sono anche molte storie aziendali. Buongiorno Corso e bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Grazie, buongiorno. E buongiorno anche a Marco Bentivogli, ex leader della FIMCISL, autore del libro Indipendenti, guida allo smart working, anche qua un altro libro per cercare di affrontare il tema e capire effettivamente poi di che cosa stiamo parlando, perché su questa questione, sullo smart working, si è fatta anche molta confusione. Bentivogli, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Corso, ci aiuta innanzitutto ad inquadrare che cosa è successo negli ultimi 4-5 mesi? Certamente, questo ci permette anche di fare un po' di chiarezza. La prima cosa molto evidente che è accaduta che per far fronte a una emergenza inaspettata è stato utilizzato uno strumento, appunto lo smart working, che è stato però applicato in un modo emergenziale e estremo. Quindi facendo lo smart working normalmente prevede un bilanciamento del lavoro a distanza con il lavoro in ufficio, in questo caso invece si è utilizzato questo strumento però portando all'estremo il lavoro a distanza. È stata una misura necessaria, di emergenza come dicevo, necessaria per far fronte alla pandemia. In realtà quello che è successo è stato la sorprendente accoglienza da parte di organizzazione impresa, cioè si è scoperto che si può fare e che può portare a degli enormi benefici. Quindi il primo elemento è sicuramente questo, sì. Una misura emergenziale che invece ha dimostrato di avere delle fortissime potenzialità a livello strutturale. E questo è un primo elemento. Già molti ascoltatori ci stanno scrivendo, c'è chi racconta di ristoranti e bar nelle zone degli uffici ormai deserti, fallimento di bar e ristoranti. Altri che raccontano, e questo è l'altro elemento, il vantaggio che ne ricavano le aziende, i risparmi molto semplicemente. Però voglio partire da una testimonianza, Francesco da Pisa, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto faccio una piccola premessa. Diciamo che è più configurabile nel periodo di lockdown più che smart working, è una forma di telelavoro, mettiamola così. Sì, esatto. Però, sì. Però sostanzialmente, diciamo, noi ci siamo trovati, io lavoro per un'azienda alimentare del campo oleario, ci siamo trovati in una settimana a cambiare una generazione, diciamo, di modo di lavorare. Abbiamo acquistato computer per fornire lo strumento per fornirgli a tutta la parte impiegatizia e fermo restando, diciamo, il primo mese di panico, perché comunque non tutti i dipendenti sono smart, non tutti sono abituati a lavorare con un notebook da casa, e siamo riusciti comunque a ottenere risultati. L'azienda sì. Non ha sofferto, siamo fortunati rispetto a tantissimi altri che non ce l'hanno fatta. Che non ce l'hanno fatta e non hanno saputo gestirlo. Allora, Francesco, la sua testimonianza è importante anche perché ci aiuta a mettere a fuoco una differenza tra quello che è il remote working, cioè il lavoro da casa come è stato messo in atto sostanzialmente durante il lockdown, e lo smart working vero e proprio, il secondo è cosiddetto lavoro agile, così inquadrato anche nella normativa italiana, bentivogli, è presuppone un cambio di prospettiva vero e proprio, ossia non si lavora più per orario ma si lavora per progetto, per portare a compimento qualcosa, e la misurazione della produttività, di come si misura il lavoro che facciamo, è affidata a quel punto a questo. In questa chiave immagino il titolo del suo libro, no? Ma sì, assolutamente, bisogna cambiare la cultura di gestione aziendale e anche la contrattualistica del lavoro. Se si continua a immaginare le aziende basate sul controllo e non sulla libertà, si rischia, come avviene tra l'altro da molte indagini rilevato, che il controllo soffochi la produttività e soffochi anche il benessere delle persone. Il lavoro agile e intelligente è un lavoro in cui c'è uno scambio di reciprocità tra una maggiore libertà del lavoratore, cioè il lavoratore lavora obiettivi e secondo progetti, però ha un'autonomia nel decidere il come, il quando e il dove fare le cose. E questo è molto importante perché noi nel nostro paese abbiamo sempre identificato invece il lavoro con il luogo di lavoro, ancora di più che con il tipo di lavoro e il lavoro che realmente si fa. Allora, proprio per questo è importante che ci sia questo interscambio tra una maggiore libertà e una maggiore responsabilità rispetto agli obiettivi. Da questo punto di vista, tutto ciò che abbiamo visto da indagini a dibattito di questo periodo è spesso altamente fuori strada, perché serve una vera e propria rivoluzione culturale, non solo per i pochi lavoratori o molti che vanno in smart working. Draghi a Rimini ha detto negli Stati Uniti almeno il 20% della forza lavoro, ma deve cambiare tutta l'azienda, deve cambiarne la cultura e deve utilizzare le persone in qualche modo in maniera molto più intelligente, e se ne ritroverà un beneficio doppio per le aziende, perché c'è un guadagno di produttività, e per i lavoratori perché c'è una maggiore capacità di conciliazione vita-lavoro, senza negare tutte le altre, gli altri aspetti positivi sull'ambiente. È chiaro che anche le città, anche questa discussione sui bar chiusi è piuttosto superficiale. Le città sono cambiate in questi secoli almeno 100 volte. È ovvio che immaginare che l'economia di una città si basa su una città intasata, in cui le persone, immaginiamo Milano, ogni giorno arrivano da Saronno o dalla Valtellina e poi la sera ritornano. Queste sono persone che spopolano i loro territori e contemporaneamente intasano la città. Questa città morta di Milano, abbiamo visto che con la ripresa delle scuole è iperintasata di nuovo. Io non credo che una smart city, una città intelligente, sia una città inquinata e intasata. Corso, voi che siete gli osservatori di questi fenomeni, lei ha l'impressione che siamo culturalmente pronti, cioè la cultura aziendale è pronta ad accettare tutto questo? Ci sono le possibilità, anche le infrastrutture, perché poi c'è anche questo di elemento. No, non siamo pronti, e questo lo dimostra anche la confusione, il fatto che si confondano quelli che sono gli effetti del Covid, del lockdown, rispetto al quale lo smart working è stata una necessità ma anche una cura, con invece gli effetti di un cambio di modello organizzativo che dobbiamo ancora vedere, libero, che dobbiamo ancora vedere. E così allo stesso modo si fa confusione tra quello che può essere adesso il modello che attuiamo e quello che dovrà essere dopo che la pandemia ci avrà lasciato. Io sto vedendo tantissime forze, inerzie e mi faccio dire forze reazionarie che contro ogni evidenza cercano di riportare la situazione, cercano di imbrigliare questo vento, questa corrente di cambiamento, per cercare di tutelare una serie di anche elementi di privilegio. Ecco, credo che il modo di affrontare, pur sapendo che dobbiamo lavorare molto, che quindi siamo impreparati dal punto di vista tecnologico e organizzativo, il modo giusto è interpretare quelle che sono le opportunità e accompagnare il cambiamento in modo intelligente, anche il cambiamento delle città, come diceva Marco Bentivogli. Le prospettive positive sono molto superiori rispetto a quelle che sono i necessari aggiustamenti da mettere in atto. Sì. Ci sono tutta una serie di elementi, di problemi abbastanza evidenti, di non solo di regolamentazione ma anche di come la viviamo. Ci scrive un ascoltatore: come facciamo con chi a casa non ha la possibilità di crearsi un ambiente di lavoro adeguato? E questo è un punto. L'altro punto che sottopone un altro ascoltatore: se sei una falsa partita IVA e ti costringono a lavorare da casa, devi essere sempre reperibile 24 ore su 24, e spesso una deviazione di questo tipo avviene anche con i lavoratori dipendenti. Nando da Taranto, buongiorno, qual è la sua esperienza? Buongiorno, allora io volevo evidenziare alcuni aspetti. Intanto, per una multinazionale questo smart working è stato una manna dal cielo, perché chiaramente si sono abbattuti tutti gli emolumenti di trasferta che fino a ieri erano presenti in un'azienda che necessariamente doveva mandare gente in giro per il mondo. Però da qui a presumere che la qualità del lavoro sia rimasta la stessa, sinceramente la cosa mi fa un po' paura, perché questo è quello che in questo momento serpeggia tra le aziende, cioè pensare che si possa raggiungere la stessa qualità del lavoro. Se vogliamo paragonare le aziende a dei call center, probabilmente l'azienda ha ragione, ma non tutte le aziende sono dei call center. Lo smart working ha ammazzato l'esperienza di gruppo. E questa è una cosa che mi tocca particolarmente, perché io facevo un lavoro di gruppo, ma io penso che tante aziende abbiano esperienze di questo tipo. È un tema, Nando, insieme agli altri problemi che abbiamo sottoposto Bentivogli e che sono, ci sono sul piatto su questo fronte. In effetti, come diceva Corso, in realtà uno dovrebbe alternare le due cose. Il Covid ci ha costretto a qualcosa di completamente diverso, ma soprattutto mi sembra che sia un tema di cambiamento di cultura aziendale. Ma innanzitutto bisogna valutare lo smart working dopo aver fatto smart working. In questa fase è come dire a una persona che ha mangiato della carne di maiale se è buono il pesce. E onestamente anche l'ultima telefonata mi lascia molto perplesso, perché intanto che si abbattano le trasferte è solo che positivo, perché l'impronta ecologica di ogni lavoratore è diventata un fatto fondamentale, cioè quanto per il nostro lavoro noi produciamo CO2, NOx, inquinamento in vario modo è assolutamente non una variabile così, è assolutamente fondamentale se noi vogliamo sul riscaldamento globale non metterci 2 tecce in più, ma fare delle cose che abbiano degli effetti concreti. Secondo, ripeto, lo smart working nel mio libro è scritto con, ovviamente anche utilizzando molti riferimenti che il professor Corso in questi anni ci ha dato, è un percorso di innovazione, e i percorsi di innovazione sono percorsi partecipati. Nello smart working il lavoro di gruppo è un lavoro che va ancora di più cementato nelle competenze delle persone, per cui serve tantissima formazione al coordinamento e al lavoro di gruppo, e per questo anche i rientri in azienda servono a utilizzare meglio quel tempo proprio per stringere le relazioni sociali. Non smettiamola di dire che le relazioni sociali sono fantastiche nel lavoro. Spesso non sono fantastiche perché non sono scelte, sono obbligate e non vi si dedica né formazione né tempo. Nei processi di smart working si fanno sessioni specifiche per imparare a lavorare in gruppo. Io poi propongo nel libro questa sorta di smart work hub, cioè nelle periferie delle grandi città gli esercizi commerciali stanno chiudendo. Perché non realizzare città policentriche e aprire questi spazi anche per uscire di casa e fare impostazioni ergonomiche, impostazioni con buone connessioni, con punti di ristoro, con sale riunioni e formazione, rivitalizzare le periferie, perché questa idea che è assolutamente necessario, il pendolarismo quotidiano, è un'idea che Allora qualche anno fa sarebbe stata un'opportunità lo smart working, oggi è una straordinaria necessità. Cioè, come si fa a parlare di solo persone che fanno il call center? Cioè, il capo della task force, Vittorio Colao, ha lavorato in smart working da Londra per fare il piano, e mi sembra tra l'altro ancora una delle poche cose ben fatte in questo paese durante, e ha lavorato in smart working, era a distanza, eccetera. Non mi sembra che il capo della task force faccia l'operatore del call center. Allora, questo modo, io mi ritrovo perfettamente nelle parole del professor Corso. Questo purtroppo è un paese reazionario in cui appena c'è un'innovazione c'è chi scatta, chi vuole il buono pasto, chi trova che la sedia della propria scrivania non ha esattamente le rotelle di quel tipo di gomma, eccetera. Se voi leggete la circolare, io l'ho messa nel libro, la circolare dell'INAIL sullo smart working outdoor, perdonatemi la franchezza, c'è da sbudellarsi dalle risate. La circolare dice brevemente, Bentivogli, come? Brevemente, prego. Brevemente, la circolare dice, mi raccomando, in outdoor, cioè all'aperto, lo smart working può essere fatto solo su pezzi di carta stampata e non su display perché possono danneggiare la vista. Mi raccomando, state lontani da animali feroci e state vicino a sorgenti di acqua potabile. Vabbè, che dobbiamo dire? Paolo dalla provincia di Alessandria, che sta per aprire un capitolo che meriterebbe una trasmissione a parte. Paolo, breve per favore, che siamo quasi in chiusura. Prego. Buongiorno. Senta, io sono convinto che lo smart working nel privato funzioni quasi sempre molto bene. Nel pubblico è stato un fallimento totale. Parlo della sanità come aziende sanitarie ospedaliere e regioni, dove abbiamo gente che sono mesi che non fa niente a casa, e tentativi delle direzioni di far rientrare questi soggetti al lavoro sono stati frustrati dalle minacce di denunce per rischi di contagi, mentre Paolo, questi signori chiarissimo, ha aperto, dato che vorrei far chiudere il professor Corso in una battuta, professor Corso, questo è il capitolo enorme, quello della pubblica amministrazione e lo smart working, enorme. Certo. Allora, quelli che sono i dati che abbiamo a disposizione anche da continua analisi che facciamo soprattutto sul mondo pubblico, ci dicono che in realtà la grande prevalenza dei lavoratori del pubblico impiego che è stata in smart working, vorrei chiarire una cosa, cioè la metà dei lavoratori del pubblico impiego ha potuto usufruire dello smart working, nella sanità ad esempio questo molto meno, non molto è successo. Molto meno. Ecco, la grande maggioranza dei lavoratori del pubblico impiego ha portato avanti tutti i servizi, abbiamo avuto anche dei picchi importanti in molti servizi pubblici di produttività. Vedi com'è, forse solo la nostra percezione, chissà. Grazie a Mariano Corso del Politecnico di Milano, trovate la sua firma nel libro del Sole 24 Ore, Smart Working, il domani è già arrivato, e grazie a Marco Bentivogli, autore del libro Indipendenti, guida allo smart working. Ci sentiamo domani e parliamo di elezioni e referendum, ovviamente. A dopo. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.